martedì, stasera, eccezionalmente, perché domani non Rockway non c'è, c'è Renato Ferro, Massimo Danieli e band. Massimo Danieli, Soul Shift, questa è l'esatta etimologia del nome. Buonasera a tutti, state bene ragazzi? Buonasera. Bene, un po' di rock, rock, nostrano rock di Padova e dintorni, possiamo dire questo? Sì. Ok, grazie a Marco Borgato, che stasera in regia, eccezionalmente, ad Alberto Prisco, organizzatore e direttore artistico. Roberto Baldi che ha curato tutte le telecamere e la redazione al femminile. Abbiamo anche una redazione al femminile, la Nicoletta, e sì, la Silvia e la Patrizia, che le salutiamo vivamente. Salutiamo. Okay. Ciao Nicoletta, Silvia. Allora, un po' di storia, Massimo. Vai. Dai un po' di storia della band. Come è nata, come si è sviluppata, dove è partita l'idea? Allora, sai che noi partiamo da un po' da lontano. 2006, io e un componente che adesso non c'è più, che è Claudio Russo, che salutiamo. Ciao Spike! L'hai salutato. E abbiamo... Sì. Ah, okay. Vado. Sì. No, beh, è giusto. Sì, tre. Tre, ok, vai. E abbiamo deciso di fare questa cosa, abbiamo cominciato a fare qualcosa in acustico, io e lui. La cosa ha proseguito finché a un certo punto... Da buoni rockers, da dove si sa che si torna sempre nel luogo del delitto. Eh sì, soprattutto nel luogo del delitto, è vero, hai ragione. Eh sì, abbiamo deciso di cominciare a fare qualcosa di un po' più elettrico, insomma, sviluppare le idee che avevamo tanto abbozzato in acustico, cercare di metterle un po' più in elettrico. Io vi ho visto alla rassegna Limera qualche tempo fa, però... qua il disco è meno elettrico, meno potente, più velutato, tra virgolette. È vero. Vero, vero? È una mia sensazione, anche una sensazione di Alberto e di Marco che hanno sentito il disco. È vero, è vero. Sai, i pezzi più potenti in realtà che noi abbiamo eseguito a Risonanze, seppur con questa formazione quindi in realtà semiacustica. Esattamente. È un acustico un po' sporcato, però abbiamo anche la formazione elettrica proprio. E poi sono quelli che in realtà sul disco sono stati registrati un po' più soft, perché magari li ho fatti chitarra e voce. Mi ricordo che a Risonanza hai fatto un solo lunghissimo alla fine del pezzo, proprio sì. Avevi improvvisato al 100%. Sì, è vero, ci sono due pezzi in cui faccio un tema vocale, uno è un po' più definito, l'altro invece è una simulazione di uno strumento a fiato che può essere una tromba. Ecco, esattamente. Quindi l'idea di questo disco non è partita, però non è il... cioè c'era qualcosa di prima praticamente, c'è un altro EP che è uscito prima di questo. Prima di questo è stato, diciamo... sempre autoprodotto. Un mezzo disco. È un mezzo disco, sì. Erano una sorta di provini che poi doveva diventare un disco in cui sono contenute due canzoni a cui noi teniamo moltissimo. Si chiamava... Provini per Carne Viva. Ho capito. E soprattutto il trio, abbiamo parlato prima in anteprima alle 9:40 con Roberto, abbiamo fatto una piccola presentazione e parlavo del trio. Il trio è l'essenza del rock. Eh sì, assolutamente. Il Cream, tanto per dire un nome. Jimi Hendrix Experience. Basso, batteria, chitarra. Sono i tre elementi fondamentali. Sì. Come ben notiamo, basso, scarni. Batteria, chitarra. Scarni ma essenziali. Sì, perché vero. Il rock così è scarni? Basta un trio. Poi si sviluppa tutto quanto. Sai, è difficile perché noi eravamo in quattro. Esattamente, volevo sapere proprio il perché da 4 a 3. Perché Claudio, che è appunto il cofondatore in realtà di tutta questa cosa, a un certo punto avevamo entrambi, tutti insomma, le esigenze, certo, di prendere delle strade più personali. E io personalmente non riuscivo a vedere un altro chitarrista al suo posto, cioè perché secondo me Claudio è sempre stato insostituibile. Abbiamo detto, intanto assestiamo il suono in tre, magari nel frattempo imparo a suonare, perché sono costretto a suonare da solo tutta la parte armonica, e poi ci siamo trovati bene. Può essere che magari arrivi qualcun altro più avanti. Quindi una band ancora aperta ad altre possibilità. Sì, sì, sì. Però adesso siete... pensavamo a un Rhodes, ad esempio. Ok. Ma anche un altro chitarrista. Un altro chitarrista essere. Che potrebbe andare bene. Due sì. Belle chitarre, un basso e una batteria, sarebbe mica male. No? Però se tutta la cosa sta in piedi in tre, secondo me abbiamo già... Perché è più essenziale, più... Il rock è quello, parte sempre da qui. È scarno. È scarno, essenziale. Duro nel senso positivo del termine, non duro così. Certo. Non necessariamente spigoloso, no, insomma. No, esattamente. Apriamo la finestra. per capire, sentire, conoscere, come il primo pezzo della scaletta di questo EP si chiama Quattro modi per morire, sì. Sono cinque pezzi di cui uno strumentale alla fine, sì. Mi pare, sì. Molto particolare, ne parleremo dopo, ne al parliamo momento. Dopo, certo. Di Argento, certo. Allora, iniziamo col primo pezzo, abbiamo scelto le prime due tracce, Bugiarda nella mente, ne parliamo dopo, lo sentiamo adesso. Cosa, certo, c'è? Ok, va benissimo. Rock Wave, l'onda del rock. Lente, te, che tu sia possibile, non c'è te, una covente, cerchio, che mo poco, no. Blue Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Abbiamo presentato il primo pezzo, allora. Adesso mi prendo un micale che non ci vedo. Benissimo. sono un po' cieco. Bugiarda nella mente. Com'è nato il pezzo, Massimo? Come l'avete sviluppato l'idea, musicalmente e anche dei testi? Allora. Pensa, l'idea di questo pezzo mi è venuta in macchina. Stavo tornando da Padova, probabilmente l'anno scorso, era estate, sì. Fine estate. Mi è venuta l'idea, sono andato a casa, ho detto vediamo. Mettiamo su qualcosa. Ho scritto un giro, ho fatto il giro, e poi dopo un po' avevo un pezzo di testo, perché io. Sono proprio così, scrivo dei. Niente. Cambiamo microfono. È il bello della diretta. È bella diretta, ti siedi, parli con quello. Bellissimo della diretta. Adesso quello si sente, ok. Beh, qua non ci piove. Non ci piove sopra. Ok. E quindi niente, sono tornato, ho fatto sta cosa, ho preso sto pezzo di testo, ho detto ma vediamo. È uscito un mezzo giro. L'ho finita. In un giorno praticamente l'ho fatta, a parte qualche piccola modifica. Mi ricordo che all'epoca feci sentire ad una persona che. Aveva provato. Che era lì con me, insomma, però non ci credevo molto, ho detto, chissà. Il giorno dopo ci siamo svegliati, quando mi sono svegliato, insomma, sento questa persona che canta un pezzo di Bugiarda nella mente. Stava cantando il ritornello, l'aveva sentita una volta. Vedi. Ho detto, forse funziona. Funziona, questo pezzo va bene. Forse magari ho un po' troppa poca autostima di quello che faccio. Quindi è stata scritta così. Sì. In realtà non ha una storia, non... mentre quasi tutte le altre canzoni, gli altri testi hanno un risvolto comunque molto personale, quella in realtà è più una storia ispirata ad un'altra persona, non a me. Ho capito. Però non è intima, diciamo, sì, come le altre invece che sono presenti in quattro modi. Io ho scritto ieri sera a ora tarda, come al solito scrivo, ho fatto qualche considerazione sul pezzo. Non è particolarmente pesante dal punto di vista armonico, è particolarmente legato a una ricerca di una certa melodia nel sottofondo, sei d'accordo in questo? D'accordissimo. Cioè c'è una ricerca nella fase melodica, sempre tra virgolette, però esiste. Sì. Non esistono più i singoli adesso, però teoricamente poteva essere anche un singolo, poteva essere una rampa di lancio, non so sì, se siete d'accordo anche voi. Bugiarda, assolutamente sì, secondo me sì. Guarda, moltissime persone ma comprese persone anche abbastanza rilevanti, perché è stato girato un video amatoriale di questa canzone, e anzi ringrazio tutto lo staff, Matteo, Ciappi, la Laura, che hanno girato con un entusiasmo incredibile quel video l'anno scorso. E un po' anche facendo girare il video, molti mi dicevano: oh, questo è un pezzone, questo va, questo funziona. Sai, sono cose che ti fanno piacere, in realtà poi io non scrivo a tavolino, non scrivo pensando di fare come viene fuori, esatto. Come viene, esatto. Magari hai anche l'intuizione di fare un giro, succede, melodico, comunque un po' orecchiabile, così che ti resta in testa e sì. Adesso facciamo parlare anche il nostro facciamo bassista. Facciamo parlare i nostri amici. Il nostro bassista qui, che adesso si avvicina al microfono. Innanzitutto, ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Davide. Benissimo, sono il basso, chiaramente, e l'idea di questo pezzo, come Massimo va portato gli accordi o va portato l'idea della costruzione armonica. Poi com'è nato l'impulso del basso e poi parleremo anche col batterista. Sì, diciamo che praticamente lui ci porta, diciamo, la struttura portante, lo scheletro della canzone, per cui molte volte ci troviamo più nell'arrangiamento proprio. Cioè lui ti porta lo scheletro della canzone, poi voi la arrangiate assieme, chiaramente. Sì, chiaramente sì. Facciamo delle buone prove sulle 2-3 ore almeno durante una serata. Quindi Bugiarda è nata, cioè lui ha portato uno schema e poi l'avete sviluppata in una certa maniera. Sì. Secondo me l'avete sviluppata, ripeto, visto che Massimo è d'accordo con me, c'è una fase melodica importante in questo pezzo. Non è una fase melodica importante nel senso che può essere, sempre dico tra virgolette, accattivante, può entrare dentro. Non so se siete d'accordo. È vero. Cosa dici te? Penso che una grossa parte la faccia comunque la voce. Indubbiamente che fa la voce, però anche gli arrangiamenti. Gli arrangiamenti qua possiamo però parlare di una formazione in cui insomma presenziava anche il nostro Claudio. È vero, tempi per all'epoca cui c'era sì, questo apporto della seconda chitarra che effettivamente nel disco si sente colorata. E adesso non c'è, chiaramente. Quando noi la riproponiamo adesso ha delle sfaccettature diverse. Più selezionata, cioè più tagliente. Sì, abbiamo anche un po' leggermente... Ok, scarnificato, però anche un po' arrangiato in maniera diversa, giusto per sopperire. Certo, a questa mancanza. Quantomeno in qualche maniera cercando di trovare il giusto appeal tra di noi, perché giustamente mancava sì una chitarra, ma a volte dici ok, manca un'accompagnatoria. Okay. Certo. Ma in questo caso sì, mancava una chitarra solista. Così va Alberto, il nostro fotografo ufficiale questa sera. Mancava una chitarra solista che faceva gran parte del lavoro, insomma, armonico, visto che parlavamo ovviamente di armonia. E a proposito di lavoro armonico, del ritmo, adesso parliamo con il nostro batterista che è qui vicino di fianco. Buonasera a te. No, Massimo ha fatto un'interpretazione non perfetta della tua... Che funzione hai avuto in questo pezzo praticamente? La funzione principale, direi. No. Certamente, ritmica. Ritmica è sempre principale. Beh, è molto ritmica, Bugiarda. Sì, molto ritmica. È un passato da batterista anch'io, quindi. Ah, sì, è vero. Questo l'ho letto. Come mai hai cambiato dalla batterista e passato alla chitarra? Ma sono sempre stato un cantante, in realtà. Io è che per arrivarci, per crederci veramente, sono dovuto passare attraverso molti strumenti. In realtà la chitarra non ci sono mai passato, ma... Essendo un rocker, ho sempre avuto la passione per la chitarra e fino a che a un certo punto ho detto: se voglio scrivere le canzoni devo suonare qualcosa di armonico. C'avevo una chitarra. Ma hai avuto delle discussioni buone, positive con il nostro batterista oppure sì, no? Sì, sì, sì. Che sì, discussioni sì, avete sì, avuto sì, musicalmente parlando? Ma siamo abbastanza in linea comunque. Ah, perfetto. Sì, l'unico che non è in linea è il bassista. Non so. E lui è in linea con altre cose. Bene, si non scherza, giustamente, però si scherza, si ride, però ma per fare un pezzo ci vuole la coesione di tutti i tre valori. Lui è un elemento fondamentale comunque. Anche dal punto di vista fisico è messo sì, forte, potente. È davvero una sicurezza per quello che mi riguarda almeno. Perfetto. Ok, passiamo al secondo pezzo e poi cominciamo a suonare. Yes. Secondo pezzo che abbiamo scelto, che è il secondo della scaletta, Fragilismi. E ne parliamo dopo, come sempre. Ne parliamo dopo. Perfetto. Rock Wave. L'onda del rock. Thank you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, quanto ci avete messo ad incidere, a costruirlo praticamente? Ma in realtà è molto poco per in fase proprio di incisione, perché è un live in studio praticamente. È un live in studio. Come si usava una volta? Come si usava una volta, live, esatto. Ci siamo trovati, all'epoca c'era anche Claudio, tutti e quattro, abbiamo suonato. Poi io ho inciso più tardi le parti di acustica, alcune parti di voce. Com'è questo discorso di sovraincisione? Io lo so, però il pubblico, mica tutti a casa capiscono che cosa è il discorso di della sovraincisione. Beh, in realtà il concetto è abbastanza semplice. Se noi immaginiamo che ogni strumento è una traccia, proprio lo visualizziamo, certo, no? Cioè una cosa orizzontale dove dentro c'è la musica prodotta da quello strumento. Quando si registra tutti assieme, ogni traccia è comunque separata, quindi è regolabile singolarmente, certo, però abbiamo comunque l'effetto di, si dovrebbe cercare di ottenere l'effetto di quasi un concerto, no? Quindi okay, c'è un impatto molto molto compatto, certo. Impatto compatto. Può capitare nel caso vostro che ci si incida, non so, un giorno la chitarra, un altro giorno il basso e poi si metta assieme, può capitare. Sì, noi abbiamo fatto per i provini di Carne Viva, abbiamo fatto così, mentre per Quattro Modi per Morire tre pezzi sono registrati appunto live in studio, che sono i primi due e l'ultimo, certo, mentre i due in mezzo sono stati registrati chitarra e voce, sempre nello stesso studio da me, e con la stessa modalità. Quindi ho fatto un live in studio anche con la chitarra e voce. Live in studio, adesso siamo in dimensione pseudoacustica, non acustica, perché abbiamo dei grossi amplificatori, abbiamo la chitarra eccetera, abbiamo il basso, sì, la batteria. Live, cioè davanti alla gente, com'è il discorso? È leggermente diversamente più, sì, potente. Sì, sì, sì, sì, sì, rimanete in tre. Sì, sì, sì. No, c'è no, un supporto di qualcuno, così all'episodio, beh, viene un tipo turnista, può capitare. Ma finora non è mai successo. Finora no. Da una mano così amichevolmente. Che ci dà una mano amichevolmente. Beh, abbiamo chi comunque magari ogni tanto viene a darci una mano con i suoni, con okay, le cose. Capito. Spesso sono ex nostri componenti, tipo John Spencer, che lo salutiamo. John Spencer, che è il nostro ex bassista prima che arrivasse Porkis. Qua, qui presente. Monkey, con tutti i vari soprannomi che abbiamo. Quindi è una formazione aperta. Sì, sì, sì, sì, sì. Ok, sono le 22, le 23.05 e l'ora suoniamo. È giusta per scaldare. Abbiamo scaldato il pubblico ha sentito i due pezzi, la finestra, abbiamo aperto la finestra. Ricordiamo, diretta rockwave.altrevista.org, ci potete vedere e sentire, vedere. Molto importante, stasera abbiamo Massimo Danieli Soul Shift, sì, Marco Borgato in regia. Grande Marco. Roberto Baldi che ha curato le telecamere, Alberto Prisco che è organizzatore e direttore artistico e io che conduco. Sì. Cosa suoniamo adesso per iniziare? Cosa suoniamo? Suoniamo un pezzo che è contenuto in Quattro Modi per Morire, però lì è registrato solo chitarra e voce. Perfetto. E invece adesso noi facciamo in tre. Un po' di strumenti. Esatto. Si intitola Ciò che resta. Perfetto. We'll be right back. voce, è l'ultima voce, si vede la Diana, cosa bella, molto, soprattutto questo andare, poi smas, poi riprendere, poi atterrare, poi ripagare e poi ludere. Eh sì, è quello che è una bella cosa. È un bel viaggio, che è molto bello, molto interessante. Hai un po'. Lei ha ampliato, questo prevalentemente acustico e prevalentemente intoniante. Sì, sì. Questa era l'idea in realtà originale del brano. È che chiaramente chitarra e voce. Hai ragione! Sì, perché qui ragazzi, io c'ho una testa che. Chitarra e voce chiaramente è un po' troppo difficile riuscire a farlo rendere così. Fortunatamente, appunto, questi due splendidi ragazzi, bellissimi ragazzi, di cui abbiamo qui l'esponente più bello. Che stai a fare, Ceschi? Devo parlare qua? Eh sì, ma è tutto in diretta. Tutto in diretta. È tutto in diretta. Tutto in diretta. C'è poco da fare. No, perché mi vedo sto ragazzo. Poi gli voglio anche bene. Esattamente, sì, abbiamo deciso. Sì. Puoi cantare anche su questo qua. Posso cantare anche qua. Anche su questo. Si sente me. Bene, allora, guarda, sai che facciamo? Che questa cosa qui l'ha fatta lui, Cioè, vedi tutto sto marchingegno? In due ore. Beh, non importa. Quindi usiamo questo per cantare. Usiamo questo. Abbiamo parlato di questo pezzo molto sognante, molto dal vivo. Adesso l'avete fatto in un live pseudo acustico, non era acustico, è ben indetto. No, assolutamente non proprio. Non proprio acustico. Dal vivo, qui siamo dal vivo, però dal vivo ampliato, cioè davanti a un palcoscenico. Come lo fate? Lo facciamo ancora più. Più duro. Duro nel senso sterzante. Sì. Più duro. Sì. Lo facciamo un po' più di grinta, ecco. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Coinvolgente. Dimmi. Coinvolgente. Coinvolgente, hai detto una cosa. Vedi, vedi che c'hai. Parli poco ma quando parli. Parli nella maniera giusta. Esattamente. Se non hai niente da dire, stai zitto. No, devi parlare. No. Qui siamo in piena libertà, deve parlare. Almeno un posto dove si è liberi. Il batterista deve sempre parlare. Come il bassista, anche il vocalist. Certo. Tutti devono parlare. Certo. Siamo in perfetta democrazia. E io parlo pure troppo. A proposito di parlare troppo, sono le 23:12 adesso, e 15, sai che abbiamo un giochetto adesso? Un giochetto abbiamo? 5 dischi da portare su un'isola deserta. Ah, erano 5? Erano 5, sì. A posto! Ma adesso li inventiamo, adesso li inventiamo. No, dopo li citiamo. Descrivi i tuoi amori musicali. Come il bassista e come il batterista. Chi vuole cominciare per primo? Ma comincia il batterista. Il batterista si sposta e si avvicina al microfono numero 3. Qui vicino, eccolo qua. Tutto dal vivo, anche lo spostamento. Apri la 1, ecco. Apri la 2. Aprimi il 3, grazie. Devi venire giù. Ecco. Sì, mi inchino. Eccomi qua. Allora spari i dischi che tu ami particolarmente. Sono significativi. Allora, Fabrizio De André. Quale? No, l'amore e il denaro nel cielo. Benissimo, perché Fabrizio quel periodo e soprattutto no, perché non ha il denaro, l'amore nel cielo? Quel disco, innanzitutto ho sentito la versione di Morgan prima dell'originale. La versione di Morgan? È un'opera. Un'opera fatta bene, no? Un'opera, sì. Fatta molto bene. Un'opera. E poi Fabrizio De André, non so, appena l'ho sentito mi è entrato dentro, tanto che ho imparato a suonare la chitarra grazie a Fabrizio De André. Quindi non al denaro, ma al cielo, cioè la descrizione dell'antologia di Spoon River, praticamente. Giusto. Che ha fatto lui. La signora Fernanda Pivano. La grandissima, citarla, purtroppo se n'è andata, però era quella che ha sdoganato, si può dire, i poeti americani. Tutta la poetica americana, i grandi poeti americani, la beat generation l'ha sdoganata la Fernanda Pivano, la grande Fernanda Pivano. Mm-hmm. Ecco, diciamo sì, quello è il primo, poi non ci sono altri dischi che comunque sono legato, perché sono un po' aperto un po' a tutto. Altri quattro, Stevie Ray Vaughan. Grande chitarrista. Andiamo sul blues, Ray Charles. Quale di Reggio? Uno a qualsiasi. Il titolo non lo so, sinceramente. La colonna sonora del film Ray. Perfetto. Che comprende un po' di tutto. E poi, mi fermerei qua. Vabbè, ok. Sì. Dopo sono un po' aperto a tutto. Sì, a tutti i gusti. Sì, vai e sì, vieni, sì, praticamente, sì, musicamente, sì. Non hai limiti. Tutta la musica che arriva, ben venga. Perfetto. Abbiamo il bassista adesso, ci avvicina anche lui il microfono numero 3 e parliamo. Sono qua. Vai. Bene, io sono forse di gusti un po' meno raffinati, ma non piaciosi, nel senso che sono un grande amante della psichedelia. Quale? sia partendo dalle origini degli anni 70. E quindi cita un qualcosa? Beh, Pink Floyd, Pink Floyd sì, proprio, ma quindi quelli questi Barrett, esatto, i primi Pink Floyd, anche vedi, se vedi Marco, i barrettiani, siamo tutti barrettiani. Anche se alla fine non sdegno neanche il lavoro anche che ha fatto, Marco. No, dimmi Marco, anche due, no anch'io, ah, no, confermo, siamo anch'io. Tutti barrettiani, sì anch'io, anche con Robin Hitchcock, però cosa dici? Vabbè, vabbè, insomma sei già andato un po' più avanti, sì, ma barrettiano lei, lui anche lui, quindi. Visto che hai fatto un disco bellissimo, Robin Hitchcock, sai che hai riproposto il famoso album I Often eccetera in chiave live, mi pare, da New York. Cioè, sì, ho visto, oh, che l'avete anche messo come uno dei dischi migliori dell'anno. Esattamente, sì, l'ha messo Stefano nella sua playlist. Ok, vai pure, quindi. E niente, poi possiamo anche includere tranquillamente la psichedelia degli anni 90 in cui sono, sì, cresciuto, per cui tra l'altro ci sono anche dei riferimenti appunto ai Pink Floyd, sicuramente io amo un gruppo degli anni 90 che sono gli Smashing Pumpkins, per cui è un altro gruppo storico, conseguenza, anche se ultimamente non è che mi facciano impazzire gli ultimi lavori, no è rimasto, tra l'altro erano rimasti il batterista e il cantante, nonché fondatore, e il batterista ha lasciato anche, fondatore, esatto, sì, diciamo che l'ultimo disco non è bruttino, ma è solo non è che sia brutto. E certo, chi ricorda i grandi dischi precedenti? Sai, è lo sforzo, secondo me, di un quarantenne di voler ritornare a 25 anni, secondo me. È un po' difficile. Invece, secondo me, deve proseguire. Cioè, adesso sta tentando di prendere la sua strada, però con qualche difficoltà, secondo me, nel senso che tenta di fare un po' di tutto, ma in realtà... Quindi non sei d'accordo anche te il discorso delle editori, delle reunion? Reunion, secondo me... È troppo generale, come, cioè, è un tema attualissimo, perché si vedono tantissime band sia dal mondo dance anni 80 che dagli anni 70 che si sono riunite o solo per bisogno o anche solo di avere qualche franco più in tasca, perché con la crisi che c'è in giro, e dall'altro invece secondo me anche le competizioni, mi sono visto gli Spandau Ballet riformarsi, secondo me l'hanno fatto per ripicca, non dovevo neanche formarsi la prima volta. L'hanno fatto per il pica, perché si sono riformati anche di 2 anni fa l'altro gruppo, sempre Phenomenon, che i Duran Duran, no? Ma quindi, recentemente dovevo arrivare qui a parlare anche gli Europe, sì, anche gli Europe, cioè è una cosa pazzesca, sì. No, dipendentemente da questo, ma perché, cioè, i Police, Sting ha detto sì, io l'ho fatto, sì, però rimane un episodio a parte, i Genesis la stessa cosa. Però c'è da dire che in ogni caso la gente che ascolta musica è molto attratta alla musica in quegli anni, per cui adesso vede quelle parte, va a vedere con chiusi, va perché ha visto, ha fatto l'ultimo CD che gli fa schifo, certo, ma neanche certo ascolta canzoni, va perché hanno già il nome, ecco cosa, i concerti al giorno d'oggi non frui più diciamo avevano ragione la Zeppelin, almeno sono rimasti a dire no, non c'è Bonzo, cioè, bisogna fare un disco, perché ci sono anche gruppi 80 anni 70 anni che non si sono mai sciolti, questo è vero, sì, continuano a suonare, ad esempio l'anno scorso sono andato, è un anno storico primitivo. Per quanto riguarda gli Smashing Punk, secondo me c'è un problema di personaggi, probabilmente gli Smashing Punk non erano, ma era tutto il gruppo, sì per chiaro, due pezzi, mentre perdi anche il patto della band all'origine, sì, quindi probabilmente sì, anche lui era un po' ego, diciamo, no? Però in qualche maniera un grosso porto l'atterista, anche bassista, e l'altro chitarrista, che trova in cima anche un disco solista, dei lavori, insomma, secondo me soffriva un po' della, no, beh, io aveva parlato in quelli, lo Zuan, sì, il gruppo, sì, ma io li ho visti, non era la stessa cosa, non sì, quello classico, deve stare a comporre la musica bene da io da 10 anni, quindi è insato, non più, non ok, adesso è ancora due di, no, ti devi ancora, pare, sì, vediamo, italiano, cioè, questo, no, da Alessio, tizio ferro, no, tutto rispetto, e taglia, rispetto per Gigi D'Alessio, ma non fa questo, no, niente, no, sono tutto onesto, rispetto, se vogliamo proprio fare una, sì, qualcosa, una, ci sono attivi col sound di Smashing, perché quindi li ascolta loro, quindi chi aveva il sound, sì, hanno un bel pubblico, tra l'altro, un bel giro, sì, che uno dei non pochi più successo di una volta, no, vabbè, rimangono, sì, grazie, sì, anche alla mamma, la G-Strike, che non c'entra, non è nella loro etichetta, però la G-Strike è un'etichetta importante, sì, loro decidono per la multinazionale, sono però hanno la testa dietro, cioè la mamma dietro praticamente. Comunque c'è sempre qualcosa. Sì, hanno sempre un po' il di dietro parato. Certo, sono d'accordo con te. L'ultimo, dai, spara l'ultimo, se ti ricordi. Da adolescente ascoltavo molto volentieri gli Shandong, che si sono sciolti, non so se avete conoscenza. Io sono diventato matto da adolescente per quel gruppetto là. Sì, adesso il cantante ha formato qualche anno The Fire, quindi sì, che vanno alla grande, sono addirittura pubblicizzati su una nota radio. Ma quanti anni fa gli Shandong? Non sono da tantissimi anni fa. Cosa del 2000... E quattro si sono sciolti. Ricordo che hanno presentato anche, hanno portato un disco anche qua all'epoca. Sì, mi ricordo di Shandong. Sì, sì. So che me li sono beccato sul loro ultimo concerto a destra, al sottosopra, e hanno fatto 3 ore e mezzo di esibizione. Però, ci vuole un bel fegato. Più che altro allenati anche vocalmente, perché ha cantato perfettamente fino alla fine. Lui è un bravo cantante. Bravissimo. Sì, sì. Ok, tocca a te, Massimo. Aspetta. Mi è venuto il quarto. Vai. Il quarto disco che passa al secondo posto, comunque. Molteni, qualsiasi disco di Molteni. Un momento, ci fermiamo a Molteni. Sai perché ci fermiamo? Volevamo lasciare la palla a lui, perché se no gli rubiamo la... Perché c'è un motivo. C'è un gusto comune, quindi. Molteni perché ha fatto un'antologia che è uscita da pochi è mesi. È vero. Ha fatto un'antologia un po' a parte, secondo me. Cioè, praticamente sono pezzi vecchi e pezzi nuovi che lui ha rimesso insieme, ha risuonato. Aveva sempre detto che era stanco, voleva chiudere. Però fortunatamente non ha chiuso niente. Continua a fare il pompiere, per dire. Certo. Però continua a suonare da molto positivo, secondo me. Perché voleva chiudere, poi quest'anno era l'ultimo anno, il 2009 era l'ultimo anno per suonare. Voleva smettere, voleva allontanarsi. Non l'ha fatto, è una cosa molto positiva. Speriamo non lo faccia, perché Umberto è una persona un po' particolare, se può essere che gli giri e magari che pure idea. Secondo me Umberto non smette di suonare. Dice che era bellissimo. Ah, sì, era bello, sì, veramente molto bello. Segreti del Corallo, si dice. È Vita Rubina. Non capito come se. Come no, però, sì. Era molto bello di ascoltare. Beh, lui a Rockaway l'abbiamo un sacco di. Giusto, era un gran. Beh, lui è uno dei miei punti fermi, comunque. Perfetto. Umberto. Vai, Massimo. Quindi... Umberto, sicuramente è tra i punti. 5 dischi, un po'. Chiaramente, sì, sono pochissimi. Potrei dirti assurdo gli Emerson, Lake and Palmer. Perché c'è Greg Lake. Un grande. Io lo adoro vocalmente. Secondo me è il mio di cantante perfetto, perché è a metà autore, ha un nato senso della semplicità, un virtù, però vai, sì, a cantare. Pezzi più grandi di King Crimson ce li scrive. Sì. Due album con lui, dopo se adesso album no, perché se andato via. Tutto wet, che comunque... Però un altro tipo di bassista. Sì, è un tipo di cantante, un altro tipo di suonare, di scrivere, di vero. Lei che fa il forte della musica. Esatto, che io non ce l'avrò mai, no, per dire. Chi metti piace dei nomi. Sì. Più armonico. Sì, Tormione, sì. Molto smattamente, importantemente dedicato, talmente... che prende a te. È vero. Sono due accordi e tre sono due pezzi di Pay Crimson, nonostante grande genio di Flip e i concetti con Jerry Flip, però è lui, poi che non posso dire. King Crimson sono un altro, comunque un altro di Pay Crimson, i primi secondo me, i primi tre secondo me è proprio l'atto, quella figura del 21 secolo, figura straordinaria. Sì è stato ripubblicato recentemente, ventennale più di 20 anni, 72, del 70 di ventennale. Quante? C'hai ragione? 70. 20 anni, non ho 30. 70, però, e ogni tanto ho già a togliere gli anni. Il mio di Crimson. Tutto nel 69, hai ragione. Nel e adesso 69. Segniamo, sì, hai ragione, abbiamo finito. Ancora due... Sono pochi, non lo so, ti dico Paolo Benvenu, perché adesso è un altro dei miei punti di riferimento. Se ne potrei dire altri 100, ti dico un artista che sto aspettando che torni. Qual Cristina è? Donà. Sì, dovrebbe tornare. Dovrebbe tornare, ha inciso l'anno scorso un singolo con i Rusties. Con i Rusties, che è in top nella vostra, sì, classifica. Giustamente Alberto l'ha messo nei primi posti, perché è un disco meraviglioso con i Rusties. Sai che non l'ho sentito il disco di Rusties. Un disco che riprende gli universi di Neil Young in versione totalmente nostrana, totalmente sua. Marco Grompi è il leader di Rusties, un grande giornalista musicale, e non soltanto è un grande giornalista musicale, è un grande anche scrittore di musica, un musicista molto raffinato, molto interessante. Verranno forse qua. Speriamo. Siamo pronti per suonare? Suoniamo. Ok, cosa facciamo? Adesso facciamo una serie di due pezzi tutti dal vivo, ok? Bene. Allora, cosa suoniamo? Qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo. Che non c'è, che tu hai già sentito, non è presente in perché questo c'eri a Risonanza, esatto. Ah, Risonanza c'ero, sì. Però non c'è in Quattro modi per morire, andrà a finire probabilmente nel disco. Perfetto, che uscirà quando il disco? Chi non lo sa. No, io sto ancora scrivendo. Hai già qualcosa pronto nel cassetto? Sì, sì, sì, c'è già qualcosa. Sembra molto più leggero comunque, come tutto come, quello come? Che sto scrivendo è leggero nel senso di meno scuro. Ci sono delle cose scure perché io il nero non me lo toglierò mai. Sei un po' cupo in alcuni momenti. Sì, sì, sì. Però la cupezza stavolta ha uno spiraglio di sole. C'è qualche, sì, c'è qualche apertura. Bene, forse. Adesso sentiamo com'è questa apertura, ok? No, questa invece è una canzone di una tristezza rarissima. Benissimo. È un'eccezione. Sono le 23:35 o quasi. Un momento di tristezza. Siamo un momento di tristezza. Lasciarmi qui in posa, precario come un fiore a metà. Siamo tutti orfani di qualcosa, tu della coscienza, io della verità. La fisico, o forse non ti accorgi del male che mi fai. Ingrassarti l'ego vedendomi in bilico, scavi un solco che non guarirà mai. Si allargasse, allargasse e poi ritorsi nella strada. Ti ma hai preso lo sfruzio. Ma non è tutto cu. No, più arrabbiato. Sei più arrabbiato. Più arrabbiato. Cioè, non me l'hai mai sì. Esattamente. Perché noi diamo il nome a tutto. Quello si chiama una coriandola. Io mi ricordo di tutto un modo divertendoli. Proprio lui. E questo è un qua dentro. Così o sarà sviluppato un pezzo? Guarda che non sei l'unico perché anche lui me l'ha sempre detto. Questo in realtà, questo pezzo è nato in elettrico, quando noi lo facciamo in elettrico è completamente diverso, cioè è qualcosa tipo così. corde praticamente. Sì, sì, sì, è completamente diverso. La melodia è la stessa, certo, ma tutta l'armonia sotto è diversa. Qui in acustico ci sono addirittura dei giri armonici in più, è stata arricchita. Okay, in elettrico è più scarna, è veloce. Patente. Sì. Lasci poco, un bello pugno sullo stomaco. Sì, può essere che magari venga sviluppata. Io l'ho sentita così. Avevo proprio bisogno di sentirne ancora. Ancora? Sì, secondo me è proprio questa sensazione. Questa è una gran bella cosa che hai detto, eh? E noi te ne daremo ancora. Ecco, benissimo. Certo. È la mia sensazione. A proposito di sensazioni, riepiloghiamo, diciamo una cosa molto importante: il vostro sito. Sì. L'ha detto batterista. Il nostro sito l'ha fatto. Batterista. Il MySpace lo curo io. Che infatti si vede perché è fermo, inchiodato. La foto non c'è si ancora muove. In mentre il batterista. Devo aggiornarlo. Mentre il sito è curato dal signor Andrea Ceschi Franceschi Ice Fosbury. Quindi che cura. Cura il sito. Sì, ti ricordi sì. Se hai qualche data? Avete qualche data da suonare adesso? Certo. Vai, vai. Abbiamo dunque domani sera il concerto al gruppo del nostro ex chitarrista, che si chiama Shin. Sì. Però il concerto è stato annullato. Può capitare. Sì, sì, sì, può capitare. Sì, sì. Ci sono si state può capitare. Può capitare, vero, sicuramente. Poi suoniamo il 12 febbraio padovani al Fahrenheit 451 Padova. Quindi di tutti là. E suoniamo il 26 assieme agli amici Pensione Garibaldi. Salutiamo anche loro. Che salutiamo. Certo. Suoniamo al Pub El Salvador. Che tutto a posto. Campo d'Arsego, sì, Sant'Andrea di Campo d'Arsego. Quindi sempre provincia di Padova. Sì, poi che abbiamo? In realtà abbiamo delle altre date che non sono ancora fissate. Dobbiamo suonare comunque sempre qui nei dintorni di Padova. Siamo stati molto fuori a fine anno. Abbiamo il 4 giugno. Abbiamo il 4 giugno a Verona. In Piazza Sereno, Verona. È vero. Straordinaria. È vero, è vero. Per beneficenza, per l'Abeo. Il nostro presidente Piero Battistoni, lo saluto. Certamente. Nonché mio datore di lavoro. Ecco. premio. L'aumento! Voglio l'aumento! Sì, una bella... Progresso, indubbiamente. Quindi il 4 giugno, quindi all'inizio dell'estate, praticamente. Io vorrei ancora farci sentire un altro pezzo dal vivo. Abbiamo detto tutti due pezzi attaccati, abbiamo parlato. Un altro pezzo, Sì, è presto, prima di arrivare alla mezzanotte, sì, abbiamo ancora tempo. Oltrepasseremo la mezzanotte, andremo oltre la mezzanotte. Ah, sì, però dopo c'è il mio programma, quindi non c'è nessun problema. Di solito. Bene. Vuoi che ti facciamo qualcosa di tranquillo? Quello che vuoi te. Lasciami immobile, pensavo anch'io, lasciami immobile. È una cosa, ho dimenticato, ci possono trovare due vostri concerti praticamente. Ai nostri concerti, oppure ci potete contattare via MySpace. Ok, sì, l'indirizzo è sempre lo stesso. L'indirizzo è sempre quello, è www.myspace.com/DanieliSoulShift. Curato dal batterista, è sempre lui. No, il MySpace è curato da me, il sito è curato dal batterista, il sito è, lo vuoi ricordare tu? Il sito è, arriva, vieni davanti al microfono. Arriva. Il sito è www.danielisoulshift.altervista.org. Perfetto. Okay. Eh sì, benissimo. E visto che i domini costano caro. Ordinare, infatti. Tutto costa. Tutto costa? In Italia. Noi diretta rockway.altervista, ci potete vedere un momento. Esatto. Diretta con Massimo Danieli Soulshift. Allora cosa si muove? Suoniamo un altro pezzo che non c'è in Quattro Modi per Morire. Bene, sono cose che dobbiamo sentire che non sono al di fuori del disco. Esatto. Mi pare giusto. Esatto, e noi te lo allargare facciamo allargare un po' di tutto. Certo, beh. Okay. Ma lasciami immobile. Benissimo. Cambio plettro. Ok. Plettro. Bella, con un cuore di porcellana, capace di andare in mille pezzi per una carezza sbagliata. Che sporge dalle tue labbra. lasciami immobile. Sì, fino all'ultima questa scende alone. Questo alone che va via. Questo però qui non si taglia niente, nemmeno nell'ultimo secondo. Niente. Come si dice da noi, come il Porseo. Del Porseo si butta via niente. Si butta via niente. Esatto. Esattamente. Però qui non si taglia niente. Come il Porseo. Questa è la regola fondamentale di questo programma che abbiamo creato un po' di anni fa, che continua a sviluppare un discorso musicale. Benissimo. Nell'album c'è anche un pezzo strumentale che a me è piaciuto particolarmente, l'ho messo su un sacco di volte a casa mia, qui no perché ho scelto un altro pezzo da mettere su per un mese nel nostro, non solo acustico che va in onda dopo di voi. Pezzo strumentale perché Massimo, nei cinque, il quinto era un suo? Motivo particolare, quel pezzo è stato, si chiama Argento. L'unico pezzo che sta scritto interamente arrangiato da tutti noi, però è stato scritto da Claudio Russo, che è appunto il componente che non fa più parte. Non c'è più. Quando noi abbiamo inciso il live in studio, che ancora non si chiamava Quattro Modi per Morire, ma aveva c'era un'altra idea di base, lui era già uscito dalla formazione e teoricamente i tre pezzi in cui c'è anche lui dovevano essere una sorta di testamento, sì, diciamo, di, no? saluto con lui. Argento è un brano che teoricamente avrebbe dovuto avere anche il testo, sì, una piccola parte parlata, infatti nell'inlay nel CD c'è un inlay, una parte, breve parte che è proprio Argento, sarebbe stato il testo di Argento. Noi abbiamo deciso di tenerla proprio perché è un cameo. Io mi ricordo benissimo quando Claudio me la fece sentire a casa sua l'anno scorso. A me piacque talmente tanto che gli dissi dobbiamo farla. All'inizio chiaramente da cantante ho detto beh, ma ci possiamo provare a mettere il testo, ma poi non dava bene. No, quando l'abbiamo suonata, cioè no, era già a posto. Era già a posto. Dovevamo metterci una parte finale alla fine per collegarla a determinate cose, però in realtà no. E qui abbiamo tempo, cui in realtà io sono molto legato, però è anche l'unico pezzo che non verrà mai più eseguito dal vivo, quantomeno non da noi. Non da voi. Forse Claudio magari lo farà più certamente avanti, non lo so. Cosa dite? Lo facciamo sentire, siete d'accordo? Argento? Esatto. Certo, come okay, no? Lo facciamo sentire allora, dal disco chiaramente. Certo. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, ci siamo, ok? Ci siamo. Benissimo. 12 meno 5, mezzanotte meno 5, stasera oltrepassiamo la mezzanotte. Tanto c'è non solo acustico, programma mio dopo, assolutamente non c'è nessun problema. Abbiamo deciso di fare tre pezzi live, no, chiaramente, parleremo fra un pezzo e l'altro, però l'idea è di concludere la mezzanotte scivolando su questi tre pezzi live. Hai scelto il primo, che è praticamente cosa? Che è quello che abbiamo sentito prima. Esattamente. Fragilismi. Lo fai versione pseudoacustica in trio, sì. In trio. Sul palco, che potenza dai a Fragilismi? Se Fragilismi è acustico e in elettrico, anche se le parti sono più o meno le stesse, cambia un po'. In acustico è più svuotata, per assurdo. E Fragilismi è abbastanza lunatica, dipende molto da che serata abbiamo anche. Ci sono delle volte che anche lui magari la stacca un po' più veloce o un po' più lenta, magari è più sostenuta, altre certo. volte che invece è più distesa. Perché inizia con un sottile gioco percussivo, Fragilismi. Sì. Come lo fai il gioco percussivo adesso? Lo fai la stessa maniera del disco oppure lo vari il gioco percussivo? La stessa maniera. Benissimo, adesso lo sentiamolo. Fragilismi da Massimo Danieli e Soul Shift, sono le 12, le 24 meno 3, ma è tutto live a Rock Station. Sì. 2 minuti. Esatto. Che alla fine. Esatto. Qua Fragilismi, un po' di stop and go. A me piacciono molto i stop and go che fai te qualche volta, o tanti batteristi li fanno e li fate anche te stasera. Sono molto interessanti, molto accattivanti, molto rockettari, molto da trio, secondo me. 12 è già mercoledì, è mercoledì. Abbiamo passato la mezzanotte e dobbiamo continuare a suonare, perché è giusto così, abbiamo deciso fino ad un quarto di cena. In questo pezzo comincia un sottile gioco per co, mi ha fatto una batterista, si è sviluppato e hai tirato la griglia, che il pezzo deve. È vero, non hai sbagliato, no, però non sei assolutamente un po' che non stand, perché non sentivi male. Non sento la voce se sono con cuffia, quindi faccio a lecca. È il bello della diretta. L'adrenalina non si sbaglia, si cicca direttamente. Ma sai che tutto dirò, sarà che forse io sono un po' masochista di mio, sì. Però certe volte quando sbaglio mi stimola. Ma io ricordo che parecchi dischi di Dylan erano volutamente incisi sbagliati, perché anche quello fa parte dell'essere Dylan, musicista. Dylan, siamo d'accordo, Dylan. Però volutamente qualche volta sbagliava anche lui, era Dylan, sì. Perché no, non si può sbagliare, facciamo parte. Beh, ci sono tanti che volutamente lo fanno, dai propri limiti hanno fatto i loro punti di forza, certo, invece. Sono d'accordo con te, quindi sì. Certo. Il trio è un punto di forza. Ripetiamo il vostro sito, il vostro Facebook, dai. Allora, il Facebook non ce l'abbiamo. Siamo singolarmente, tranne te, ma te tra un po' arrivi, secondo me. Anche lui, sa, anche lui. Ma lui è quello che ha curato tutto, o no? Lui è quello che ha curato il sito, è il factotum che cura il sito e anche altre cosette. E altre cosette? Factotum! No, perché come pronuncio io il latino, quasi peggio del mio inglese. Il nostro MySpace è www.myspace.com. Cosa ci possiamo trovare oltre a delle recensioni e altre cose? Trovate la musica, trovate la biografia, trovate delle foto, delle immagini, trovate dei video. Esattamente. Dal vivo, alcuni anche dal vivo. E poi trovate la musica. Esattamente quello. Trovate le canzoni. Ripetiamo velocissimamente le date più vicine adesso. Le date più vicine sono il 12 febbraio, che è un venerdì? Sì. Non doveva succedere, è capitato. Ma che scherzo? Dimmi. Che venerdì 14 è San Valentino. È domenica San Valentino. Beh, si può fare un concerto anche a San Valentino, che problemi ci sono? Certo, infatti. Assolutamente. Esatto. Comunque suoniamo il 12 febbraio, venerdì 12 febbraio al Fahrenheit 451 di Padova. Perfetto. E sabato, venerdì sempre, 26 febbraio. Al El Salvador con i Pensione Garibaldi. Perfetto. Ok, andiamo a sentire un altro pezzo allora, che dunque superiamo ampiamente la mezzanotte e andiamo avanti. Cosa ci fate sentire adesso? Facciamo il demone. Ok, facciamo quello che ho scelto per un mese, è non solo acustico. Okay. E noi adesso te lo facciamo sentire in tre. Ah, benissimo. Ok. Aspetterò che il tuo silenzio mi riempia di domande per stenderlo di schiena ed infilargli tra le gambe le mie accuse. Forse riderà. Che palle giornate a rosicchiare provvite di pappe l'inverno fosse un brano cane. Essere spegli che una dipendeva da te stessi, ma se ti vedi nel mezzo ti salanti, allora che si fa? Da se stessi, essere sociali crea una dipendenza da se stessi. Sì, un bel contorno di piatti, che bello, questi piatti. Io perché l'ho scelto questo pezzo per un mese nel programma non solo acustico, il programma perché non c'erano i piatti. No, perché sapeva di acusticità, mi piaceva per quello. Poi si è sviluppato in un altro senso, però l'inizio acustico e a una certa ora della notte fa un certo effetto, secondo me. Per quello l'ho scelto per un mese, quindi così, il mio insindacabile parere. Il programma lo faccio io, quindi ho scelto questo pezzo, mi piaceva particolarmente. Ma sei un buon gustaio, eh? L'ho scelto, mi piaceva particolarmente, era la finestra di questo album, questo mini EP che si chiama Quattro modi per morire. Abbiamo finito questa cavalcata, sono le mezzanotte e un quarto quasi, mezzanotte e dieci. Sì, facciamo un altro pezzo, sì Marco, facciamo un altro pezzo prima di finire. Tanto... Grande Marco, no, grazie. Abbiamo finito questa cavalcata, abbiamo parlato della vostra musica, dei vostri progetti, questa dalle dieci e mezza fino alle 12 e un quarto, abbiamo allargato il campo dei vostri input sonori. Questo è molto positivo. Spero siete stati soddisfatti di questo giro armonico, questo giro nel vostro mondo musicale praticamente. Abbiamo scoperto cose vecchie, cose nuove e cose nuovissime praticamente. Sì, sì, sì. Anche cose non ancora uscite, cose sì. Sì, sì, abbiamo... Ma noi comunque in realtà... Siamo molto sperimentatori. La vostra dimensione è live, però. Sì, assolutamente live. Assolutamente live, sì, sì. Beh, sarà che comunque a me lo studio di registrazione proprio a pelle non piace, non riesco, ho sempre una sorta di tensione. Quindi se suonassi da vivo anche in studio di registrazione, sempre in continuazione? Probabilmente riuscirei sicuramente meglio, sì. Sì, sì, sì. Non lo so come mai, devo avere qualcosa nei cromosomi, nel DNA che forse avete un EP, non è compatibile. Un EP pubblicato non tanto tempo fa e un disco presunto. Un disco presunto per questo 2010. 2010, sì. La fermo, pronto. Quanti pezzi già avete scritto? Praticamente? Beh, non è proprio pronto. No, avete dei pezzi già scritti? Beh, ce ne sono almeno quattro. Almeno quattro già completi. Già sicuri di entrare nel presunto disco. Due li abbiamo sentiti, tre li abbiamo sentiti anche. C'era il discorso dell'autoproduzione, chiaramente l'etichetta. Come sarà il discorso? Allora, il disco non si sa di preciso perché uscirà. Finora può essere che esca, non è una certezza. Io ho intenzione di avviare una coproduzione con altra gente, con altre persone, e c'è già qualcuno che potrebbe anche costi, potenzialmente. No, non è un suo di costi, perché è una coproduzione artistica. Ho capito. Più che esecutiva. No, i costi purtroppo saliranno. Chiaramente, però. Però ho bisogno anch'io di riuscire a mettere, essere in grado di affarmi anche a qualcuno. A sviluppare praticamente. Ma la grandissima c'è tutti a me. Sì, in questo caso un po' di compagnia. Adesso via Graco Borgasi, io sono conduttore. Una settimana un Jessica suonerà uscito da qua. E avremo una grande di regione. Secondo Federico, del mutante. Il disco a un certo punto. Poi dalle ci verrà poi di Simolo da te che ezza con un altro. Concludo. Ok, a tutti, prossima settimana. Prega. Sì. Cerca azione che ne fai da me di gestirmi. Andiamo allo stato fare il tono Tokyo Ersco HD Peggio stesso mi sta fa' sei tardi hai le gole.